Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato a tutti da Giulia Crivelli e benvenuti alla rassegna stampa europea di Radio 24. Anche questa settimana il nostro premier Matteo Renzi ha raccolto l'attenzione di tanti giornali, a partire da quelli tedeschi, che sembrano insomma amarci un po' più del solito, se non altro se appunto l'attenzione dei grandi giornali è un segnale di questa attenzione barra amore. Questa volta la Süddeutsche Zeitung, che giovedì scorso ha proprio parlato del periodo un po' particolare che sta attraversando il premier, ammettendo che comunque, anche se è calato nei sondaggi, è sempre al 43% di gradimento, che è un'ottima percentuale di gradimento, però meno di quanto fosse in primavera. Secondo la Süddeutsche Zeitung, Matteo Renzi, cito testualmente, leggo testualmente, deve stare attento a non cadere nella sindrome del palazzo. Se perde il filo di comunicazione con gli italiani, fallirà nelle riforme di cui l'Italia ha tanto bisogno. Il riferimento è al fatto che durante le alluvioni, che hanno colpito molto anche la Germania, perché forse lo ricorderete, qualche anno fa, quando Schröder era cancelliere, anche in Germania c'erano state alluvioni di questo genere, però appunto allora Schröder si era messo gli stivali, si era fatto fotografare, forse aveva davvero spalato, cercando di dare un'immagine di un premier che interveniva in una situazione di emergenza. Invece Renzi in quei giorni era tutto concentrato sulle riforme, sulla famosa riforma elettorale e costituzionale che coinvolge i Berlusconi e Forza Italia, e non si è fatto vedere con gli stivali e a aiutare a spalare, e questo secondo la Süddeutsche Zeitung è stato un errore. Passiamo a Financial Times, che martella sempre sulla BCE, la Banca Centrale Europea, e questa volta lunedì e martedì Financial Times ha scritto sia della questione dell'acquisto degli ABS, quel particolare strumento finanziario che la BCE sta usando, ma poi ha anche spiegato che il bilancio della BCE resta inchiodato poco sopra i 2.000 miliardi di euro, pensate, e praticamente, ha scritto il quotidiano britannico, questo significa che la nostra banca centrale non ha fatto nemmeno un passo nella direzione auspicata dal consiglio direttivo, che in base a una serie di misure espansive nella spesa negli ultimi mesi contava di farlo risalire ai picchi toccati a marzo 2012, cioè con 1.000 miliardi in più. Questo è un tema di cui continuiamo a occuparci, un po' il dibattito tra chi vuole spingere per manovre decisamente espansive, non timidamente espansive, e chi invece è molto attento, insomma, ai rischi di indebitarsi troppo, chiunque sia l'istituzione che si indebita, perché questo poi viene pagato in termini di interessi di volta in volta, che potrebbero a loro volta schiacciare gli effetti positivi delle politiche espansive. È un dibattito davvero che credo continuerà a vedere opposti, appunto, chi sostiene una strada e chi invece sostiene l'altra. A proposito confronti tra paesi, El País si è occupato di l'evasione fiscale che riguarda le società del calcio, e ha fatto alcuni confronti dicendo che è un problema in realtà che non riguarda solo la Spagna in questo caso, però El País ha parlato dell'agenzia tributaria spagnola, l'equivalente naturalmente della nostra agenzia delle entrate, che ha lanciato una vera e propria offensiva contro l'evasione fiscale nel calcio spagnolo. Vengono controllate le dichiarazioni dei redditi delle società, ma anche di tutti i calciatori della prima divisione, cioè l'equivalente della nostra Serie A, e vediamo un po' se si tratta, aveva dato notizia anche El Mundo, l'altro grande quotidiano spagnolo, solo di ispezioni fiscali un po' così generalizzate, oppure se veramente l'agenzia delle entrate spagnola ha identificato dei casi non di elusione, ma di vera e propria evasione. Torniamo alla BCE, ma vista da un quotidiano americano, il New York Times, quindi dall'altra sponda dell'Atlantico, che è tornato su una questione che in realtà il New York Times aveva già esaminato, che è quello del salvataggio di Cipro. Secondo il New York Times, in quel caso la Banca Centrale Europea ha sfidato le sue stesse regole, violando il principio di base, ovvero non essere coinvolta nel salvataggio di una banca o di un governo ricorrendo alla possibilità di stampare moneta. E anche questo dello stampaggio della moneta, o quantitative easing, sapete, è un altro tema che torna, perché continua a avere, come quello delle misure espansive, i suoi sostenitori e i suoi avversari. Il quotidiano americano comunque scrive che a luglio del 2012, questa è la novità, perché New York Times spesso proprio si occupa di giornalismo investigativo, quindi a volte torna sulle questioni se i suoi giornalisti hanno trovato nuovi documenti o nuovi filoni di inchiesta. Quindi il quotidiano americano Quotidiano scrive che a luglio del 2012, secondo appunto quanto scoperto dai suoi giornalisti, uno dei sei membri del consiglio esecutivo della BCE consigliò misure alternative che la Banca Centrale di Cipro voleva forse prendere in considerazione. Per esempio, si potevano ampliare i collaterali in modo da far arrivare alla banca in crisi più prestiti di emergenza. E questo è naturalmente poi, non so se avrà un seguito o no, perché a volte queste inchieste giornalistiche vengono poi magari un po' insabbiate, se non c'è qualcuno che continua a martellare sulle questioni, è nell'interesse in generale dell'accusato, in questo caso la BCE, appunto, del lasciare di non svegliare il can che dorme, ecco, potremmo dire. Torniamo alla questione delle istituzioni europee, questa volta però è la Commissione e indovinate naturalmente Juncker, che è sotto accusa per essere stato in qualche modo coinvolto nelle misure di elusione fiscale che ci sono in Lussemburgo, che permettono, o meglio, che permettono a chi sposta la sede in Lussemburgo di pagare meno tasse, appunto elusione fiscale. E allora Le Soir, un quotidiano francese, ha ospitato un'intervista di Jean-Claude Juncker e lui dice che non si sente in dovere di dimettersi, ma Le Soir ha precisato che ha un presidente che pareva voler sfuggire dalla stampa e soprattutto dalle sue responsabilità. È successo il presidente che ci si aspettava, quindi al presidente precedente Barroso, questo è determinato, lucido, diretto, agisce mettendo ognuno di fronte alle proprie responsabilità. Questo è quello che ci si sarebbe aspettato. In realtà Juncker in questo momento non ha una posizione facilissima. Lui sostiene di non aver fatto niente che davvero giustificherebbe delle dimissioni. È forse più una questione di opportunità, non c'è naturalmente violazione della legge, e continua a esserci molta parte della stampa economica in particolare, ma non solo, che dice che appunto questa mancanza di opportunità di vederlo presidente della Commissione Europea in un momento in cui tanto si parla di questioni fiscali, lui che queste questioni fiscali si è occupato da un altro punto di vista e sappiamo con che risultati, forse appunto dovrebbe dimettersi, ma non, personalmente non credo che lo farà, comunque vedremo. Passiamo a tutt'altro argomento che però è forse ancora più importante, che è quello della crisi tra Ucraina e Russia, e anche tra Russia e Unione Europea, e tra Russia e Stati Uniti. Secondo alcuni quotidiani, e in particolare ne citerò uno ucraino, l'Ucraina si preparerebbe appunto per una vasta offensiva russa, anche militare. L'Ucraina mobilita le truppe, chiede pubblicamente l'intervento dell'Unione Europea per far fronte a un'offensiva militare russa che sembra prepararsi nell'est del paese. Secondo il Kiev Post, ad esempio, appunto, ci sarebbero questi movimenti. Abbiamo visto al G20 in Australia che Putin è ormai veramente isolato, ma non arretra di un centimetro. Ha lasciato in anticipo il vertice del G20 e poi ha anche ribadito, per ancora soffiare sul nazionalismo dei suoi connazionali, che la Russia, insomma, che la Russia non è mai stata sconfitta, che la Russia non accetta diktat dall'esterno. Vedremo, insomma, nelle prossime settimane come evolverà questa questione. Il settimanale d'inchiesta I portoghese si occupa di un'altra questione molto interessante, di cui forse colpevolmente qui a Radio 24 no, perché ne ho sentito parlare tanto, ma in generale si è parlato poco, ed è il nuovo trattato, il TTIP, che rivoluziona un pochino i rapporti commerciali con gli Stati Uniti e tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, tant'è che la vignetta che accompagna questo articolo vede un signore molto smilzo, sembra una figura di Giacometti. La vignetta è di un vignettista che si chiama Balaban, ha una valigetta in mano con le stelle dell'Unione Europea, quindi è chiaramente, rappresenta l'Unione Europea. Davanti a lui ha un signore molto alto, che è lo zio Sam, con un cappello con la bandiera americana, che guida un carrello della spesa che al posto delle ruote ha quelle ruote degli schiacciasassi. Il titolo è: alcune organizzazioni nell'articolo si spiega che alcune organizzazioni della società civile se la stanno prendendo con la Commissione Europea e si oppongono a questo accordo di libero scambio con gli Stati Uniti, che si chiama così, TTIP in inglese, che letteralmente è partenariato transatlantico di commercio e di investimento, che in realtà avrebbe alcuni grossi svantaggi per l'Unione Europea, appunto. Torniamo un attimo su Juncker, perché qui era interessante un articolo di Le Monde intitolato Uno scandalo utile, e che parlava appunto di Juncker e dello scandalo LuxLeaks, perché come WikiLeaks, questo LuxLeaks è un sito che svela ciò che forse ufficialmente alcuni non vorrebbero svelare. Da lì è nato tutto le polemiche sul ruolo di Juncker. Secondo Le Monde è comunque utile che ci siano questi siti. Sapete che anche su WikiLeaks ci sono state tante polemiche, perché alcune delle informazioni rivelate hanno portato per esempio allo svelamento dei nomi di alcuni agenti segreti, che a questo punto sono in pericolo. Insomma, bisogna sempre soppesare bene quando si rivelano questi segreti di Stato. In questo caso però, se riguarda Juncker, forse è stato un bene, almeno questa è l'opinione di Le Monde. Temo che sia l'ultima segnalazione che ho tempo di farvi, i miei 10 minuti più o meno sono scaduti. Vi ricordo sempre sia Internazionale, che riporta tante notizie, sia il sito, sapete mi è molto caro, www.presseurope senza la e finale.eu, dove prendo soprattutto le segnalazioni dei giornali che sono in lingue che purtroppo mi sono inaccessibili. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.